Fausto, tu hai scalato tutti e 14 gli 8.000, sei uno che ha dedicato la propria vita o parte della propria vita alla montagna. Tutte le volte che senti di qualcuno, l'abbiamo sentito pochi minuti fa, il GR muore in montagna, perde la vita durante un'arrampicata, cosa pensi? Qual è l'emozione che ti prende? Innanzitutto tristezza. Poi è ovvio che la montagna in questo caso non è responsabile. Ma quando tu guardavi quegli 8.000, la paura era quella di non arrivare su o di non tornare giù? Ma i dubbi, la paura, credo che sia una cosa umana, anzi mi fa paura, mi fanno paura coloro che dicono che non hanno paura. Oggi la mina vagante in studio è Fausto De Stefani. Mine vaganti di Federico Taddia. Suona e canta. Voi non avete applaudito solo la sua luce, ma avete applaudito il suo canto e la sua musica. Lo scenario è quello delle Dolomiti, la voce era quella di Monio Vadia che salutava il sole in una delle tante manifestazioni del festival Suoni e anche Voci delle Dolomiti, di cui oggi parleremo molto. A Mine Vaganti, buona domenica da Federico Taddia, eccoci qua in diretta da Radio 24 per accompagnarvi lungo il vostro viaggio di ritorno di questo weekend, o comunque per farvi compagnia, raccontarvi quell'Italia che c'è ma che non fa rumore, storie, persone che ci piace scovare e che amiamo, a cui amiamo dare voce. Anche voi potete diventare protagonisti della puntata con le vostre domande e i vostri interventi via sms al 349 238 6666, oppure attraverso il numero verde 800 24 00 24, oppure ancora attraverso le nostre pagine in Facebook. Abbiamo le pagine ufficiali di Mine Vaganti, dove potete, l'abbiamo appena caricata, vedere subito una foto. Ci sono io, ma soprattutto qua con me in studio c'è Fausto De Stefani. Ciao Fausto. Ciao. Che bella barba. Ormai è il tuo tratto distintivo, vero? Una volta era molto nera. Adesso, ma va bene così. Ma questo è il colore della saggezza, Fausto. Beh, insomma, no. Un parolone parlare di saggezza. Allora, Fausto, ti abbiamo invitato in studio perché, a parte che è sempre un piacere chiacchierare con te, ho visto che sei uno dei protagonisti di questo festival, Suoni delle Dolomiti, che è un festival che sta prendendo sempre più piede, perché usare come location il nostro arco alpino è un'idea fantastica, e l'idea bella è quello di farlo in maniera sostenibile, senza incidere sull'ambiente, no? Impatto ambientale minimo. E so, stai nicchiando, vedo che è difficile fare le cose in montagna senza lasciare segno. Sì, no, beh, devo dire che io ho partecipato a diverse iniziative e devo dire che l'impatto è stato minimo. È ovvio che la montagna dovrebbe essere ascoltata magari in silenzio, ma va bene anche questo, perché altrimenti si rischia veramente di diventare un po' troppo integralisti. Mm-hmm. e non va bene. E poi parlare, coinvolgere un sacco di persone di fronte a degli scenari veramente straordinari, credo che sia una grande opportunità di sensazioni, di emozioni che non guastano mai. Parleremo molto di montagna con te, ma non solo, perché per te la montagna non è solo gli 8.000 metri, li hai scalati tutti e 14, sei uno dei pochi al mondo ad averlo fatto. Sì, ma al di là, ripeto, degli 8.000, io credo che l'alpinismo, quello più importante, quello a cui voglio veramente un bene, è stato quello prima degli 8.000, e non che gli 8.000 non siano stati importanti. Però come mi sono approcciato in modo graduale, senza bruciare le tappe, ascoltando ovviamente alcune persone che io li reputo ancora dei grandi maestri, insomma. E comunque la montagna è una scuola, la montagna prima di affrontarla va studiata, va capita, va conosciuta. Va ascoltata soprattutto, e poi bisogna, ripeto, in modo lento, bisogna portare in montagna i ritmi della natura, che sono ritmi sicuramente lenti, e tante volte invece noi portiamo la frenesia che accumuliamo nelle città, nei paesi e oramai da tutte le parti, perché non credo che ci sia grande differenza. Tu abiti in provincia di Mantova, però in collina. Sì, Cavriana, provincia di Mantova. È stato faticosissimo oggi arrivare a Milano, vero, per te? Proprio la città non... Sì, mi sembra di essere il Fantozzi della situazione, nel senso che... Ma no, mi piace a volte, però, ripeto, dico, ma come fanno ad abitare in mezzo a tutto questo... questo caos? Io ho visto in metropolitana che tutti correvano, nessuno ti guarda. Per me è difficile, ma veramente. Guarda, mentre mi parli, avevo un'immagine davanti, no? Che insomma, questa fretta in metropolitana a Milano, tra l'altro di domenica, la gente è anche tranquilla, figurati. Immaginati domani che è lunedì, e questi incontri che non ci sono, quando invece si incontra qualcuno a 8000 metri, perché succede, no? Lì che si fa un passo ogni minuto e capita comunque che incroci il tuo cammino con quello di qualcun altro, sì, o è rarissimo? È raro. Forse adesso è più frequente, soprattutto sulle grandi montagne, quelle di Grido, ad esempio sulla normale dell'Everest è facile trovare la coda, ma su alcune montagne, alcune vie, soprattutto al di là del tuo compagno che hai poco distante, non è che poi lì non è che fai delle grandi chiacchierate, uno sguardo e già ti sei già detto tutto, insomma. Sì, sì. Ma hai nostalgia di quella sensazione? Sì, da una parte mi manca molto, però devo dire che questo da sempre rimango innamorato di ogni ambiente naturale. Io non ho avuto il privilegio di vivere in mezzo alle montagne, in mezzo a quelle guglie così ardite, in mezzo alle Dolomiti, però devo dire che amo la pianura, amo le colline, amo le montagne allo stesso modo. Io credo che non esistono luoghi brutti, ma luoghi diversi. Ogni luogo ha delle peculiarità importanti e dipende esclusivamente da noi quello che vogliamo ascoltare, vedere e sentire, insomma. Fausto De Stefani oggi a Mine Vaganti, 800 24 00 24, il numero verde se avete domande, se volete interagire con lui, se anche voi avete un'esperienza significativa di montagna da raccontare, potete farlo anche via SMS al 349 238 6666, oppure attraverso le nostre pagine di Mine Vaganti in Facebook. Fausto, toccheremo un sacco di argomenti con te, c'è questa parola scuola che tornerà, proprio una risposta secca a questa domanda, proprio distinto, siamo in radio, la radio è fatta di suoni e di rumori, tu la parola suono e rumore alla montagna l'hai abbinata tantissime volte, qual è il rumore della montagna, qual è il suono della montagna? È un suono silenzioso. Io credo che se uno desidera il silenzio, può essere una grande orchestra dolce. E però se uno non vuole il silenzio, può essere veramente qualcosa di estremamente pesante che ti logora. Ma io ho bisogno tante volte proprio di silenzi, ma questi li vado a trovare anche non necessariamente in montagna. Si trova ancora quindi il silenzio? Basta cercarlo. Noi ci fermiamo, il momento delle informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua a Mine Vaganti. Mine Vaganti. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome, ancora con noi siamo così, come se sempre lei. Fiorella Mannoia, questa è una sorta di live fatto mi pare sotto le tre cime di Lavaredo, i suoni delle Dolomiti.it, appunto dall'archivio degli scorsi anni, in questo scenario suggestivo, queste note, queste musiche, questo calore, persone che scalano, fanno la camminata, c'è chi prende la seggiovia, c'è chi prende la funivia, ma c'è anche proprio il piacere, no, del raggiungere questi posti a piedi e lì gustarsi lo spettacolo, non solo della natura ma anche dell'artista. Fausto, tu quest'anno parlerai, perché ci saranno anche i racconti, non solo i suoni delle Dolomiti. Cosa ti chiede la gente? Nel senso, da te cosa cerca? Cosa si aspetta? Sì, la maggior parte vorrebbero che io parlassi solo di montagna, però poi fortunatamente trovi anche persone che vorrebbero capire meglio la persona che hanno lì di fronte, perché insomma non è che siamo sempre lì attaccati a una parete o che stiamo salendo una montagna, cioè siamo persone normali che hanno idee, che hanno paura, che hanno contraddizioni, che insomma, e di conseguenza poi uno quando non è in montagna è ovvio che è impegnato magari su altri fronti che non è che siano meno importanti di quelli legati alla montagna o all'impresa, insomma altri fronti che adesso andremo a vedere. Prima però c'è un altro festival che ci aspetta, un festival molto particolare, però credo che abbia molto a che fare con la natura. È il festival del Letame. Tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una... Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori, ed è questo passaggio di Fabrizio De André che è stato preso come slogan dagli organizzatori del festival del letame, il cibo della terra. Con noi c'è uno degli ideatori, do il benvenuto a Graziano Poggioli. Ciao Graziano. Ciao. Siamo a Buongiorno. Siamo a Serra Mazzoni, in provincia di Modena, se non sbaglio, giusto? Sì, siamo in precisione a Pompeano, una frazione di Serra Mazzoni sull'Appennino modenese. Ok, tu sei un architetto e contadino, questo mi hanno scritto. Sono nella tua presentazione. Sono un contadino biologico e un architetto bioecologico, sì. Insomma, quindi la natura diciamo che è un po' la fondamenta delle tue varie attività e hai trovato varie declinazioni. Come mai il letame al centro di questo festival e come lo celebrate? Beh, siamo alla terza edizione del Festival del Letame, il cibo della terra. Perché? Perché Festival del Letame? Perché il letame è il bovino di bovini, è il più adatto a essere usato per ridare alla terra ciò che l'uomo asporta quotidianamente quando coltiva. E il letame è una grande ricchezza dei contadini ed oggi spesso non lo sanno più e spesso non lo sanno neanche più fare. Quindi è necessario che gli agricoltori imparino a fare il buon letame. Per questo in questo festival c'è un concorso del miglior letame. No, aspetta, scusa, c'è un concorso per il miglior letame? Sì. E chi sono i partecipanti? Cioè, i partecipanti sono stati quest'anno 9 aziende agricole biologiche, ognuno ha consegnato il suo campione di letame e un gruppo di esperti, una giuria, lo ha analizzato. Quali sono le caratteristiche o i parametri, insomma, per giudicare un buon letame? Ecco, qua abbiamo fatto un'analisi a livello visivo, tattile, olfattivo, e poi abbiamo fatto la prova del contenitore d'acqua, una palla di letame, una pallina ben schiacciata di ogni singolo campione immessa in un barattolo contenente acqua. Mm-hmm. Chi si scioglie prima è il peggior letame, la pallina che resiste è il miglior letame. Sarà il letame che rimane a disposizione della terra e delle coltivazioni, quello che si scioglie velocemente andrà a finire in falda e avremo anche il problema dei nitrati. Non ci sarà cibo per le coltivazioni. Si sa già il vincitore del miglior letame 2011? Sì, è cosa di questi minuti. Ha vinto di nuovo, dico di nuovo perché non è sempre quello, di nuovo comunque una stalla biologica, ma che alleva la razza bianca modenese, una razza storica del parmigiano reggiano. Sì. È un'altra azienda rispetto a quella che ha vinto l'anno scorso, però in tutti i casi c'è sempre di mezzo la razza bianca modenese. Insomma, siamo il vitello, no? Stiamo parlando di mucche, mi chiedono. Come? Stiamo parlando di mucche? giusto? Stiamo parlando di vacche, di bovini, infatti parlando di latte, certo. Bovine. Ok, insomma siamo contenti, credo che verrà festeggiato questo vincitore, insomma è comunque un riconoscimento. Stavo leggendo il programma, intanto caseificiosantarita.com è il sito ufficiale per conoscere il programma, sì. Anche se la festa ormai si sta chiudendo. Beh, si chiuderà con il concerto della Via Lattea verso le 21, ma... Aspetta, frena, che cos'era? Chi sono questi della Via Lattea? Concerto della Via Lattea è un'altra manifestazione interessante dove si porta la musica classica all'interno dei caseifici, all'interno in particolare dei magazzini di formaggio di stagionatura, dove il parmigiano reggiano stagiona per 24 mesi e oltre. Fantastico. E un'ultima curiosità, appunto, leggendo il programma c'era anche la tombola dell'etame, come funzionava? Anche la tombola dell'etame, sì, è un'iniziativa di quest'anno, funziona in questo modo. E un terreno è stato suddiviso in tante caselle da 1 a 100, ognuno acquista il biglietto che corrisponde ai numeri che sceglie. Nel recinto vengono immesse 3 manzette, quando le manzette restituiranno come fatta o biuda a madre terra le erbe, il fieno ruminati e digeriti, sì. Sulla casella in cui depositeranno, quello sarà baciato dalla fortuna e se avrà vinto. Fantastico. Insomma, è bello perché avete. No, siete riusciti a coniugare comunque i vostri valori, quelli del biologico e del biodinamico, anche in maniera creativa e divertente. Quindi si gioca, si scherza, ma sì. Non solo, perché dietro, insomma, ci sono progetti assolutamente. Dietro c'è questa cosa importante, seria, del metodo dell'agricoltura sostenibile. L'agricoltura biologica è ancor più l'agricoltura biodinamica. Mm-hmm. C'è la biodiversità, difatti abbiamo la presenza di ben 4 paia di buoi, di razza, 2 di razza varsese, un'altra razza storica lombarda, sono venuti qua gli amici allevatori, custodi da Ponte di Pavia. Mm-hmm. Insomma, e 2 paia di buoi di razza bianca modenese. E anche questo, no? Fatto trainare un carro degli inizi del Novecento, un carro modenese del 1930. E con la gioia anche dei bambini che sono potuti salire su questi carri. Non vi siete fatti mancare niente, Graziano, ti porterai a casa tu la pallina di letame vincitrice quest'anno? Come? Ti porterai a casa tu la pallina di letame che ha vinto il concorso? Come? Fai finta di non capire. No, non ho capito. No, mi chiedevo se appunto questa sera ti porti a casa tu la pallina di letame vincitrice? Beh, ci portiamo a casa un po' di queste cassette perché è utile comunque per l'orto, è utile per i vasi da fiori, è utile comunque da spargere sul terreno perché come... titola il nostro festival è il cibo della terra e del buon cibo. Grazie Graziano, complimenti a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie a voi. Questo era il festival dell'etame, Fausto, insomma anche questo, no? È un atto di amore verso la terra. Ma sicuramente, anzi è una cosa estremamente seria e importante, mm-hmm. fondamentale, più importante ancora della passione delle montagne, mm-hmm. che le passioni va bene alimentarle, ma queste poi, come si può dire, sono anche passioni egoistiche. Non a caso l'alpinismo è nato quando la gente aveva già la pancia piena. Sì, aveva voglia di altri brividi. Mio padre me l'ha detto in qualche occasione, ha detto anche a me sarebbe piaciuto andare in montagna. Però avevo altro da fare. Esatto, era più importante portare a casa la pagnotta alla fine del mese. Mm-hmm. Ma questo va bene, vuol dire che comunque stiamo meglio di una volta e possiamo permetterci anche di avere del tempo da dedicare alle nostre passioni, poi ad ammirare, ad ascoltare. Credo che sia importante, insomma. Fausto, tu quando sei tornato coi piedi per terra, diciamo così, quando insomma dopo tutte le tue imprese, comunque questo legame ancora quotidiano con la montagna, però questa passione, questo volersi dare agli altri e i bambini, di cui so che insomma sono un centro del tuo lavoro, perché i bambini si stupiscono, i bambini si sorprendono, e ai bambini stai dedicando veramente tutte le tue energie con questo progetto fantastico in Nepal. Come è nato, perché il Nepal, e cos'è diventato questo progetto, nato forse così come una provocazione, una sfida? È stato sì una scommessa, un sogno che poi magari se uno ci crede non è detto che non si riesca a realizzare, concretizzare. Io devo dire che dal Nepal, non solo dalle montagne, dalle persone, dai bambini, credo di aver avuto delle grandi emozioni, delle sensazioni importanti. All'inizio fai finta di non sentire quelle voci che a volte ti arrivano, perché la passione è talmente forte di dedicarsi alla parete o alla montagna che fai finta che non esistano, ma poi arriva un certo momento che non puoi più assolutamente non ascoltarle, e quando le ascolti è ovvio che devi metterti in gioco con la stessa passione, la stessa determinazione che hai quando sali le montagne. E lì mi hanno chiesto se potevo aiutarli, ho detto ci provo. È stata una risposta folle, però devo dire che è andata bene. E in Nepal ci torneremo, ci andremo fra pochissimo, ci fermiamo nel momento del tempo in diretta e poi ancora qua Mine Vaganti con Fausto De Stefani. Mine Vaganti. Fausto De Stefani, uno dei più famosi alpinisti italiani, ma insomma la sua fama va al di là delle imprese sportive, l'amore per la montagna, la difesa della natura e questi progetti che porta avanti in Nepal da diversi anni con una fondazione che si chiama Fondazione Senza Frontiere Onlus Nepal, .senzafrontiere.com è il sito ufficiale, un progetto che ha un suono, un nome, Rara Hill. Cosa significa, Fausto? Rara Hill è la sigla di quattro martiri ammazzati nel 90 di fronte al Palazzo Reale, una manifestazione di studenti, una manifestazione pacifica, però lì poi il re ha dato l'ordine di sedare questa protesta sparando. Ovviamente quattro ragazzi di Kirtipur proprio sono stati ammazzati e di conseguenza si è voluto proprio che la scuola fosse dedicata a questi quattro martiri, insomma. Ecco, arriva l'alpinista italiano che già vuole violare le loro montagne e in più vuole anche aprire le scuole. E qual è l'accoglienza? Cioè, come sei visto là? Quale approccio hai dovuto utilizzare per portare avanti i tuoi progetti? Ma io ho sempre cercato di andare un po' in punta di piedi, anche se devo dire che poi è anche molto difficile. No, sono molto ben voluto a Kirtipur, soprattutto perché lì ho degli amici da parecchio tempo. Poi ovviamente non ho mai avuto bisogno di clamore, nel senso che il mio alpinismo è sempre stato un alpinismo molto silenzioso, ma perché fa parte del mio carattere, giusto o sbagliato che sia, questo me lo porto dietro perché sono così, insomma. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci ha scritto Beppi Magrin, forse un collega, e dice: saluto Fast, uno tra i migliori. Lui ha salito quattro cimi in Antartide, otto delle Ande, quindi insomma siete anche voi una piccola comunità, no? Cioè, piccola. Sì, beh, piccola non è poi così esatto, piccola non è vero, perché siete comunque tanti. 800 24 00 24 il numero verde, oppure le nostre pagine Mine Vaganti di Radio 24 in Facebook. Quando sei stato in Nepal l'ultima volta, Fausto? Sei mesi fa, per l'inaugurazione della quarta struttura, che sono le nuove cucine, il nuovo refettorio, il nuovo convitto, e fra tre mesi sarà pronto per l'inaugurazione il nuovo ambulatorio che verrà dedicato a Giuliano De Marchi, un alpinista che è morto l'anno scorso sull'Antelao nel gruppo delle Dolomiti, e poi tre laboratori artigianali, scalpellini di legno, scalpellini di pietra e pittori di tank. Quindi avviamento professionale, portando avanti anche le tradizioni e le culture locali. Esatto, anche se c'è già la scuola per accompagnatori naturalistici, che è la scuola professionale, insomma. E i soldi per fare tutto questo dove li trovi? Andando in giro, conferenze. Poi devo dire che da un anno a questa parte anche la provincia autonoma di Trento è parte attiva anche di questo progetto, perché alcuni amici sono venuti giù e sono rimasti veramente impressionati di quanto è stato fatto, insomma. E cosa fai ancora in Italia? Cioè, perché non ti sei trasferito là? Ma no, io credo che io sto bene anche in Italia, anzi sto bene sulle colline, sto bene nella pianura, ma io sono una persona che si vuole bene, e di conseguenza se riesce a trovare degli equilibri e dei luoghi dove star bene, Sto bene anche adesso qua, però a Milano, devo dire, nella metropolitana ci stavo troppo bassa, troppo bassa esatto. Per te, Fausto, abituato agli 8.000 là sottoterra, no. La passione è un po' la parola chiave della tua vita, la passione per la montagna, la passione per sì, la natura, la passione... Uno diceva, se non c'è passione non c'è poesia, ecco, io ci credo molto perché al di là dell'età, ovviamente che non sono più un giovinetto, ma anzi... però devo dire che ho la stessa passione anche quando cammino normalmente su sentieri orizzontali e quando magari mi sento ancora il desiderio di salire più in alto, insomma. E passione e poesia sono anche le parole che ci accompagnano nella prossima storia. Andiamo in Sardegna. Se i capiti sono sbiancati e i fidoli sono sposati, ma noi restiamo qui, sempre attaccata a uno sciumolo, con cuore in drinti piazzi e di pensieri sempre in volo, tra i carrucci e scalinetti. È uno degli angoli più belli della Sardegna, ma non esagero nel dire che è uno dei luoghi più belli della terra. Non siamo in montagna, ma siamo al mare, siamo sull'isola di Budelli, insomma la spiaggia rosa, questo patrimonio naturale, questa spiaggia dove non si può approdare appunto per rispettare il luogo. Beh, su quell'isola da più di 20 anni ci vive un modenese che è andato appunto, si è trasferito e tuttora a 72 anni è una sorta di unico abitante e custode volontario dell'isola. Do il benvenuto a Mauro Morandi. Ciao Mauro. Ciao. Buona domenica. Ma cosa ci fai lì su quell'isola tutto solo? Cosa ci faccio? Vivo, cosa vuoi? Ho fatto una scelta abbastanza così strana, però è molto gratificante perché finalmente sono veramente a contatto con la natura, col mare, con gli animali e niente, sto bene anche perché sono lontano da una società che non è che mi piaccia molto, no? E quindi, insomma, perché purtroppo d'estate mi raggiunge. D'estate ti raggiunge perché abbiamo scoperto, la tua storia in questi giorni, perché c'è stato una sorta di caso internazionale, vero? Sì. Un approdo, una sorta di pirati inglesi che comunque sono voluti scendere sulle spiagge, tu ti sei opposto, hai dovuto chiamare la guardia costiera. Com'è andata la storia in sintesi, vista da te che sei stato il protagonista? C'era questo mega yacht di una ventina di metri, un po' a largo, sono sbarcati due barconi con marinai, con operatori, con macchine da ripresa, con divani, con poltrone, con tavolini, si sono piazzati in spiaggia, proprio al centro della spiaggia, che dovrebbe essere inaccessibile perché è da salvaguardare, come unica spiaggia del Mediterraneo che è composta come le spiagge della Polinesia, al 95% di carbonato di calcio, e perciò sono sbarcati sulla spiaggia. Io appena me ne sono accorto mi sono precipitato a mandarli via dicendo che era proibito, niente, non sono nessuno che andare. Ho chiamato appunto il parco e la capitaneria, dopo un po' sono arrivati, ma hanno fatto quello che dovevano fare, e poi mentre andavano via, arrivata la capitaneria, hanno sgonfiato, perché sembravano poltrone e divani in pelle, no? Sì. Bianchi. E invece poi erano gonfiabili, hanno sgonfiato sta roba, sono rimontati sui loro gommoni, sono andati sul mega yacht, la capitaneria si è avvicinata al mega yacht, ha preso documenti, poi non so come è andata a finire. Anche perché lì Joe si parla di una multa di ben 50 euro per tutto questo, vero? Sì, però adesso il parco e la capitaneria credo che dovrebbero fare un ricorso penale, cioè accusarli penalmente. Certo. Anche perché comunque, insomma, ambientale. Il parco della Maddalena è attivo, insomma, in difesa, nel rispetto dei propri beni, quindi credo che sia anche appunto vada a tutto loro vantaggio e sia interesse loro difendere questo angolo di paradiso. Ma Mauro, tu come ci sei arrivato sull'isola di Budelli 22 anni fa? Ma diciamo che è stata una storia un po' strana, è stato un po' il destino, perché io avevo un grosso catamarano e volevo andare in Polinesia con alcuni amici per trovare appunto un'isola deserta e fare una vita un po' alternativa. Sì. E quando sono arrivato qua in questo posto che non conoscevo, non sapevo che esistesse magari di queste cose, dell'isola. Mi ero avvicinato appunto alla spiaggia perché c'erano tutti i bagnanti, allora si poteva sbarcare, e mi sono messo a parlare con il custode. Dopo un po' il custode mi fa: guarda che io fra due giorni devo andare perché mia moglie non riesce più a resistere alla solitudine d'inverno e a tutta questa gente d'estate. E allora io mi sono proposto come nuovo guardiano, niente, io a sabato è andato via e io ero qua il lunedì mattina. Quindi insomma un cambio vita anche abbastanza repentino. Sì, sì, ma anche perché era quello che cercavo, io non pensavo che fosse un'isola di questo tipo, invece poi non mi sono ancora stancato dopo 22 anni. Insomma. Ma e lì vivi da solo? Diciamo d'inverno sì, d'inverno sono da solo, poi due volte l'anno vado a Modena a trovare mia madre che ha 97 anni, molto vecchia, i miei figli eccetera, e ho qui un amico di Genova che viene a posto mio, perché qua non bisogna mai lasciare sola l'isola, e viene a posto mio a fare la guardiania, insomma. E d'estate purtroppo invece si avvicina molto di gente, perché vogliono vedere la spiaggia, un po' vogliono parlare con questo matto che si è rifugiato su un'isola deserta, vive da solo, e così. Quindi se d'estate evidentemente non sono da solo, d'estate c'è sempre molto di gente, insomma. Tuo malgrado sei diventato una piccola attrazione. Ma sì, in un modo abbastanza strano, pensano tutti di trovare un guru, un santone, qui e là, invece io sono una persona normalissima, sì, più normale di quelli che continuano a vivere in una società che è molto più difficoltosa che vivere su un'isola deserta. Ecco, ma hai corrente elettrica, hai l'acqua? Sì, diciamo che l'acqua è piovana, c'era una cisterna fatta di militari della Seconda Guerra Mondiale, la casa è una vecchia casa della Seconda Guerra Mondiale, un po' ristrutturata, e vado avanti con i pannelli fotovoltaici, i pannelli solari, perciò il televisore che va con le batterie dei pannelli solari, no, sono attrezzato, ho tutto quello che mi serve, purtroppo appunto devo andare avanti con pannelli solari e batterie. Quindi cioè, non passi l'inverno guardando la televisione, vero? Beh, d'inverno è un po' il problema, è che le giornate sono molto corte, certo. La giornata comincia verso le 8 di mattina, 8 e mezza di mattina, quando comincia ad esserci un po' di luce, poi uscire. E alla sera verso le 4 e mezza devi entrare in casa, perché non essendoci illuminazioni stradali qua è tutto buio, devi entrare in casa, perciò sono le notti che sono molto lunghe, perciò devo anche ascoltare la radio, ma non conoscevo la vostra, l'ascolterò da adesso in avanti, mi guardo la televisione evidentemente. Ma pensa, insomma, se Radio 24 arriva all'isola di Budelli possiamo dire di avere il 100% degli ascoltatori, quindi è già un territorio occupato. sì, esatto. Mauro, grazie davvero per averci raccontato la tua storia, una storia di passione e poesia, insomma, fa anche sorridere, no? C'è un piccolo germe di follia, sembra, invece è così. Sembra. Sembra, invece è una scelta, e quando dietro c'è una scelta vuol dire che ci sono dei pensieri, delle riflessioni e voglia proprio di fare quella cosa lì, anche se appunto tutto è nato per caso. Ciao Mauro, buona estate! Ti ringrazio infinitamente, ciao. Ciao, vieni a trovare se puoi. Sì, però mi presento, non faccio come gli inglesi, ok? Cioè... Ok, d'accordo, ciao. Grazie, ciao. Mauro Morandi, il custode, l'unico abitante dell'isola di Budelli, anche lui oggi a Mine Vaganti. Ci fermiamo, il traffico poi ancora qua. Mine Vaganti. Stavamo sorridendo insieme a Fausto, no? Ascoltandola, ripercorrendo la storia di Mauro, bella storia, insomma, sono quelle storie che ci piace scovare qui a Mine Vaganti, e anche Fausto è pieno di sorprese. Prima gli ho chiesto: ma quando ci vai in montagna? E lui mi ha detto: beh, di notte. Come di notte? Cioè, anche di notte? Anche di notte, ma mi è sempre piaciuto andare. Adesso sempre, ovviamente, dedico anche meno tempo, perché quando uno crede in un progetto, ovvio che deve dedicare tutte le energie possibili, indispensabili, nel senso che alla fine è ovvio che sarebbe anche comodo e molto egoistico continuare a salire montagne. Io credo che comunque uno che mentre percorre il proprio sentiero della passione alla montagna deve capire che comunque l'unica cosa certa in mezzo a tanti dubbi è che le energie col passare degli anni se ne vanno. E questo uno deve capirlo, altrimenti lo fa capire la montagna, perché è inevitabile questo. per cui deve attorniarsi anche di altri interessi che non sono meno importanti, anzi io li reputo più importanti. Di conseguenza, quando poi non riuscirai più a salire pareti o montagne, alla fine queste riusciranno a sorreggerti meglio e a mantenerti, a mantenere quell'equilibrio che secondo me è fondamentale. Abbiamo aperto parlando dei lutti legati alla montagna, anche recentissimi, di queste ultime ore, la montagna che ti mette di fronte ai tuoi limiti, cioè con la montagna non si può scherzare, non si può giocare, ma è la montagna quella cattiva, è lei che si vendica tutte le volte che qualcuno ci lascia la pelle. La montagna non si vendica, la montagna non è assassina, la montagna è lì. Ripeto, io credo che la montagna potrebbe vivere tranquillamente senza la nostra presenza. Mm-hmm. Siamo noi che abbiamo bisogno della montagna. Se riteniamo la montagna come ultimo regno del silenzio, se riteniamo la montagna come un luogo per grandi avventure, ma intese come avventure interiori, io credo che in montagna non c'è niente né da conquistare né da sfidare. È già molto se riusciamo a capire meglio le nostre debolezze, le nostre contraddizioni, le nostre ansie. Ma sarebbe già tantissimo, insomma. Fausto, invece io ti riporto in pianura e ti riporto in pianura a bordo di una carovana, di una strana carovana. Va benissimo. Dove si viaggia e si balla. Balla cavallo non porta pena. Nel ballo piccolo c'è il cavallo buono. A balli estremi, estremi cavalli. Due cavalli bagnando il ballo. Ballo, cavallo e Venere riducono l'uomo in cenere. On ne fait pas un bal sans casser un cheval. Non è bello ciò che è ballo, ma è bello ciò che è cavallo. Un bal a cavallo non fa primavera. Bal a cavallo che l'erba cresce. Pure io. La musica è quella occitana, il territorio che stanno percorrendo è quello piemontese, lo stanno facendo a bordo di alcune carovane trainate da cavalli, sono una decina di artisti, fanno musica, fanno teatro, ma non solo, perché insomma hanno trovato un modo per sbizzarrirsi anche sfiorando le nuove tecnologie. Si chiama Carovana Bala Caval e con noi c'è una delle protagoniste, diamo il benvenuto a Manuela Almonte. Ciao Manuela. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, diciamo subito che è difficilissimo contattarvi perché il cellulare è sempre scarico, perché non avete connessioni quotidiane. Manuela, dove siete in questo momento? Allora, in questo momento siamo alla Cascina Ingea di Monasterolo di Savigliano. Okay. Non riuscivate a contattarci perché io vi avevo avvertiti che avrei lasciato il telefono in carica. Giustamente. Perché siamo andati a farci un bagno nel Varaita. Ci tenevamo molto a questa cosa e quindi niente, poi sono arrivata in tempo, però insomma avevamo voglia di rinfrescarci perché qua fa un caldo incredibile e poi soprattutto c'è un fiume bellissimo, cioè io in questo momento sto attraversando dei territori che sono vicinissimi a casa mia perché io sono di Bra. Sì. E non li conoscevi? No, ovviamente no, non così. Ecco Manuela, ma chi siete e perché questo progetto, da dove nasce, quando siete partiti? Perché io non lo conoscevo, vi ho captato per caso in rete con queste fotografie molto suggestive, perché sono vecchie carovane, avete riallestito proprio una sorta di vecchio teatro nomade e state... Sì. In realtà le carovane risalgono alla metà degli anni 90, un paio di carovane, le più vecchie, perché tutto questo nasce principalmente, prima di noi c'è stata una compagnia che si chiamava Crocmul. Sì. Che viaggiava con due di queste carovane. Uno di noi ha fatto parte di questa compagnia, che è Stefano, e loro erano musicisti che viaggiavano, hanno compiuto un lungo viaggio in Europa dalla Francia alla Romania, dopodiché sono stati in Salento e poi a un certo punto la compagnia si è sciolta, ma queste carrozze sono rimaste e sono passati un po' di anni, parlo di 10 anni fa quando io li ho conosciuti. Sì. A questo punto, dopo una serie di vicissitudini in cui comunque abbiamo continuato a incontrarci, in cui comunque sono nati dei gruppi musicali, in cui c'era qualcuno sempre che aveva a che fare con questa compagnia, ci siamo trovati alla fine, all'inizio dell'anno scorso, del 2010, a dire ma forse è ora che questi carri ripartano. Avevamo voglia di farlo anche in una maniera un po' più organizzata, nel senso proprio di fare una stagione con, sì, in cui avessimo dei contatti già con i comuni e quindi di avere degli spettacoli pagati, di farlo come mestiere, certo, che è la cosa migliore, non divertirsi lavorando. Mm-hmm. E a questo punto abbiamo deciso di rimettervi in viaggio, appunto, percorrendo il Piemonte. Ma ci vivete su quelle carovane? Sono diventate proprio la vostra casa in questi mesi? Sono diventate la nostra casa, saranno la nostra casa per 4 mesi. Mm-hmm. E questa era una parte fondamentale, diciamo, di questo progetto, perché appunto noi siamo 5 musicisti, un fotografo, video operatore, un tecnico, e avevamo voglia proprio di fare un'esperienza insieme che fosse totale, cioè, certo, nel senso che veramente viviamo insieme adesso già da alcuni mesi, perché poi c'è stata anche la preparazione che abbiamo fatto insieme. Mm-hmm. E fate musica, c'è un cineconcerto con film muti e musicati dal vivo, e avete trovato anche il modo per produrre energia elettrica, mi dicono. Sì, abbiamo trovato il modo nello spettacolo di varietà che facciamo, sì, varietà degli anni 20 del terzo millennio, che è una creazione appunto che abbiamo fatto apposta per questo viaggio. E in questo spettacolo noi immaginiamo di essere negli anni 20 del 2000, quindi okay, fra pochissimo il petrolio è finito e noi siamo l'unica compagnia, la prima diciamo, che si è riorganizzata per fare degli spettacoli in giro, per riprendere a muoversi, a viaggiare. Per questo motivo abbiamo dei carri e dei cavalli, perché... Certo, e però insomma facendo ballare la gente, so che avete un modo per ricaricare un po' le batterie. E Manuela, ti ringrazio, diamo il sito per conoscervi meglio e soprattutto per seguire tutto il vostro viaggio, che è caravanbalcavallit.wordpress.com, e l'abbiamo già messo il link anche nelle nostre pagine di Facebook di Mine Vaganti. Ciao Manuela, buon viaggio e buon ballo, salutaci tutta la carovana. Ciao. Noi ci fermiamo il GR e poi ancora qua con Mine Vaganti. Mine Vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, questo è Mine Vaganti, 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure ci trovate in Facebook, nelle pagine di Mine Vaganti con tutti i link e non solo, ci sono anche le foto, ci sono dei video relativi alla puntata di oggi, alla puntata in corso. Saluto e ringrazio per essere stato qua con noi Fausto De Stefani, alpinista, ma avete sentito, non solo. Allora Fausto, questo appuntamento pubblico, allora venerdì 22 luglio sarai al rifugio Roda di Vail, siamo in Val di Fassa, sì, per la manifestazione Suoni delle Dolomiti, racconterai la tua montagna e non solo, perché insomma ci hai fatto capire che al di là della montagna c'è una persona e questa persona ha tanto, tanto da raccontare. Sì, sarebbe riduttivo parlare solo di montagna, credo che ci siano anche altre cose che va bene tutto insomma. Mm-hmm. Tra le tante attività che stai portando avanti, abbiamo parlato del Nepal, e mi raccomando andate sul suo sito perché da lì ci sono tutti i link relativi a questo bellissimo progetto, però ce n'è anche un altro che così di nascosto, ma hai sussurrato, hai aperto un'officina delle favole, ho capito bene? Sì, è l'officina di racconti delle favole, era un'officina da fabbro e adesso è un'officina con... dove si raccontano favole ai bambini, soprattutto bambini di scuole materne, prima, seconda, terza elementare, e anche con degli oggetti molto interessanti dove facciamo vedere oggetti di uso contadino, pastorale, di popolazioni molto lontane da noi, ma che comunque anche loro, vivendo in modo quasi arcaico, però hanno il senso dell'estetico, del bello, il bello ci migliora tutti quanti. Ma è vero che non ascolti più gli adulti, adesso ascolti solo i bambini? Ah, devo dire che degli adulti, non tutti, non voglio generalizzare, però gli adulti tante volte mi hanno deluso e di conseguenza sono arrivato a una conclusione abbastanza drastica, dove sono arrivato a dire che bisogna cominciare ad ascoltare i bambini. FaustoDeStefani.com è il sito. Fausto, ti devo dare una brutta notizia. Ti aspetta la metropolitana fra pochissimo. Sì, ti tocca. Va bene. Grazie davvero, ciao Fausto. Buona serata a voi. Ciao. Noi continuiamo, entriamo nella cronaca locale, oggi raccontata e commentata da Gabriele Cirilli. Luana. Luana è l'amica mia quella brutta, talmente brutta che quando va al mare le cozze gli fanno, oh, chi non muore si rivede. c'hai. Se la sarta te deve prendere la circonferenza vita, devi via il motorino. Ha fatto la battuta. Gabriele, te l'aspettavi un'accoglienza così? Dall'amica mia quella grassa. Gabriele Cirilli, Mine Vaganti, ciao Gabriele. Grande, ciao Fede, come stai? Molto bene, grazie. Siamo andati. Saluto a tutti gli italiani che sono in spiaggia. Ecco, e noi no, quest'anno. E noi no, io sono per strada, pensa. Noi siamo qui, ma ci piace far compagnia agli italiani che sono in spiaggia, in montagna, tanti anche in macchina, insomma, e ci seguono. Gabriele, ma tu... Pensa, lo sai Fede, ho visto poco fa al semaforo una ragazza che era così grassa che la Smart gli stava attillata. Te giuro, non sto scherzando. Questo è Gabriele Cirilli, guarda la realtà, la fa sua e diventano sì. Battute. Ma Gabriele, sei in tournée in questo periodo? Guarda, purtroppo sì, dico purtroppo perché è faticoso, però è anche una cosa bella perché vedo l'Italia con come andrebbe veramente vista. Certo. E adesso questa sera sto vicino a Latina e mi hanno fatto mangiare benissimo, mi hanno accolto con entusiasmo. La provincia italiana è bellissima. Pensa, sono arrivato in questo paese che è Sonnino, no? Sì. E c'era scritto benvenuti a Sonnino. Poi dopo 10 mesi c'era arrivederci a Sonnino, perché era molto piccolo. E poi aspetta, c'era un cartello in piazzetta, come ti trovi a Sonnino? Perché sono favolosi, hanno un'accoglienza incredibile per noi. Insomma, la provincia che noi amiamo anche raccontare attraverso le notizie più curiose che incontriamo nella cronaca locale. Sei pronto? Perché ti abbiamo selezionato un po' di articoli per vedere cosa suscitano in te. Partiamo dalla Gazzetta di Modena. E dove a Reggiolo si è tenuto l'annuale concorso Fani Mondiali di Rutto, si chiama Rutto Sound, e il titolo è questo: Rut Misterio trionfa, Rutto Sound, il savinese vincitore assoluto davanti a 20.000 spettatori. Ha vinto nella categoria Rutto più lungo, 1 minuto 29 secondi, record del mondo. Guarda, io sono riuscito semplicemente a fare con un rutto, sono riuscito a fare la canzone, ti dico qual è la canzoncina, però pochi secondi, tipo olè, tutta con un rutto, saranno una ventina di secondi, ma i miei ossequi a questa persona che è con un minuto? Un minuto e 29 secondi, lui è Rut Misterio, però ha annunciato, dopo credo ha vinto 3 anni consecutivi, ha annunciato il ritiro. Io invece so che non ha annunciato il ritiro un amico mio, che invece ha avuto il peto più forte e più lungo, ecco. E l'ha fatto su un sacchetto di coriandoli, è stato carnevale per tutto l'anno. Bene, perfetto, stiamo così, innalzando il livello del pomeriggio, ma è la cronaca locale che ci porta a parlare di questo. Vedi che sì, questo è successo a Prato alla Peligna, vicino sul Mona. Perfetto. La voce di Rimini invece, questo è il titolo, insomma dietro c'è anche un fatto di disperazione, però il titolo è bello, quindi non potevamo non citarlo. Cleptomane per depressione, arrestata 47enne per furti da 1000 euro di vestiti, e dice: lo faccio solo quando sono osservata. È così. Bello, bello, bello. Io invece faccio l'amore solo quando sono osservato. Perfetto, bene. Io, soprattutto mia moglie, sì. Quando è osservata dà il massimo, proprio veramente, non sto scherzando. No. Io mia moglie, allora, molti mi dicono: ma tu dici mai sempre cose, parole particolari a tua moglie? E io dico: certo, gli telefono ogni tanto e gli dico parole particolari quando sono al lavoro. Sì. Quindi non so se è arrivata questa cosa, ma sì. Vuol dire che io e mia moglie sono 26 anni che stiamo insieme. Non so se si è sentita la disperazione nelle mie parole. Si è sentita. Salvatemi. Con l'indulto già stavo fuori. 26 anni sono tanti, Fede, credimi. Ci credo, ci credo. Pensa che l'altro giorno gliel'ho pure detto: fatto amore mio, perché stavamo facendo quell'amore, no, guardare da tutti. Sì. E gli ho detto: amore mio, dimmi la verità, ma quando mi vedi nudo, a che cosa pensi? E lei mi ha detto che c'è un sacco da stirà. Ecco, perfetto. Allora, Gabriele, fermati lì, lasciamo le informazioni per chi sta viaggiando e poi torniamo con Mine Vaganti e la cronaca locale. Mine Vaganti. Mine Vaganti con la cronaca locale che abbiamo selezionato e stiamo commentando con Gabriele Cirilli. Allora, Gabriele, andiamo a Napoli, il quotidiano Il Mattino, questo è il titolo: ruba fiori al cimitero per il bouquet alla vedova. È una storia curiosa di questo romantico ammiratore che per giorni quotidianamente ha regalato un bouquet di fiori a una vedova, ma si è scoperto che questi stessi fiori li rubava al cimitero. Bellissimo. Beh, questo è amore, eh? Questo è amore. Questo è amore vero. Quando una persona è portata a comportarsi in questo modo, vuol dire che ama veramente questa. Io non so come si chiami lui, Peppino, Tonino. Se no, non è citato il nome. Posso parlare con lui? Sì. Un attimo. Tonino, Peppino, chiunque tu sia e dovunque tu sia, sei un grande. Questo è amore vero. Se tu hai coraggio di entrare al cimitero, rubare fiori per poi regalarli ad una vedova, tra l'altro, sei veramente un grande. Io non sono mai riuscito a fare di meglio. L'unica cosa che sono riuscito a fare per amore, le extension. E sai perché? Perché una volta, però l'ho fatta i capelli, invece è tutto è nato, una volta stavo a casa, è entrata un'amica di mia moglie con capelli lunghi, Laura, sì. Si chiama anche così, scusa Laura ma racconto questa cosa, capelli lunghi, lei ce l'ha corti di solito, e mia moglie fa, oh che bello Laura, c'hai i capelli lunghi, fa, Maria questo è un trucco, è l'extension, serve per allungare i capelli, lei ha guardato me, poi ha guardato Laura e gli ha fatto, scusa ma funziona solo con i capelli? Non avevo dubbi, non io avevo ci ho dubbi. Provato, io ci ho provato Fede e alla fine l'ho fatto con i capelli, sì, eh. Questo ti fa perfetto. Ho fatto solo questo io per amore, non riesco a rubare fiori. Ok. Altro titolo divertente dal resto del Carlino di Bologna: ladri si addormentano dopo il furto e si risvegliano in manette. Vabbè, sono entrati in una casa, hanno fatto il furto, poi se la sono dormita. Mentre su Oggi Treviso, sì, online, questo è il titolo che non è male: scavalca la rete, prof scambiato per un ladro, docente in ritardo al consiglio di classe, insospettisce i vicini, la polizia arriva a scuola. Non è male. Bello, bello. Vedi la provincia italiana, Fede? È bellissimo, dai. E la provincia ti dà un... Non lo so, quando tu dai queste notizie, io mi emoziono, perché non esiste solo la città con i rumori, con i clacson, col traffico, esiste anche questa provincia. La provincia di quando tu arrivi e senti che il paese è talmente piccolo che se il vigile fischia un'infrazione, parte il treno alla stazione. Oppure la provincia che tu arrivi... E non devi fare file semafori come a Roma, che proprio oggi mentre arrivavo a Roma, no? Perché poi stasera vado a Latina, come vi ho già detto, certo, sonnino, a Roma c'era una macchina dietro di me che appena è scattato il verde, ma a 30 centesimi, neanche mi ha dato il tempo, io gli ho detto, oh, guarda che deve ancora diventare verde, quello mi ha guardato, te vale per un'altra volta, vedete, questa è la differenza tra la provincia e la città. Tu continua a dare queste notizie di provincia perché veramente riempi il cuore degli italiani. Andiamo allora con l'ultima notizia, siamo a Bari, Repubblica, siamo ad Acquaviva delle Fonti, il bello, titolo sono stato. Evade dagli arresti domiciliari e dice meglio il carcere dei suoceri. Bellissimo, e c'ha ragione, pensa che mia suocera è l'unica che si è autoclonata, rompe le palle per due. Gabriele, grazie davvero per essere stato con noi. Allora, questa sera a Sonnino, giusto? Sonnino, ok, sì, Sonnino. Poi insomma tutta estate credo che è sarà... È una piazza, è ingresso libero. Perfetto. Però è la gente vera, quella che alla fine arriva fa, ma tu sei, io contento, sì sono io signora, e tu, venite a vedere, è arrivato Gigi D'Alessio. Eccolo lì, e invece lui è Gabriele Cirilli, a Mine Vaganti, ciao Gabriele, grazie, buona grazie estate. Ciao, ciao, ciao. Il pensiero nella testa, con un'aria come questa, se ne va, via che va, siamo gatti, siamo noi, siamo gatti, beati noi. E rimaniamo nella cronaca di provincia e lo facciamo accompagnati da questo pezzo, siamo gatti, lui è Samuele Bersani, vecchia colonna sonora del film La Gabbianella e il Gatto, ma ci piaceva introdurci in questo argomento perché la cronaca locale poi è anche va scritta, cioè la notizia va cercata, va scovata, va raccontata e lì mi entra in campo anche il giornalista di provincia che a volte si trova a dover scrivere pezzi anche e così al limite del surreale, come è accaduto a questo giro a Marianna Gianforte, giornalista del Centro. Ciao Marianna. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, ciao a te. Intanto la notizia come l'hai scoperta? Poi la andiamo a raccontare. Come l'ho scoperta? Con il classico giro di nera che si fa dentro insomma i quotidiani ogni giorno per scoprire qualcosa di cronaca nera che possa essere interessante, un furto, un omicidio, un incendio. Invece, ecco, mi è capitata una cosa appunto singolare. Sai quelle cose che ti dicono: ma no, sai, è una stupidaggine, non ti può interessare, non può interessare un giornale, no? E invece lì il fiuto della giornalista ti porta a scrivere un articolo intitolato Raiano, che è la località, gatto sì. Cade nella fogna e sbuca dal water di una casa. Non è una leggenda metropolitana, giusto? Non è una leggenda, ebbene succede anche questo. Chi l'ha soccorso, questo gatto, sono stati gli angeli, i cosiddetti angeli, i vigili del fuoco, che poverini fanno anche questo, oltre che a salvare dalle macerie, dagli incendi, salvano anche i gatti che finiscono dentro i water. Certo, ma per fortuna, insomma, tra l'altro è una storia a lieto fine, quindi sì. Insomma, il gatto sta bene, però protagonista a sua insaputa di un fatto di cronaca esatto. Anche io divertente. Non so se voi avete avuto modo di vedere il video, perché noi sul sito del centro abbiamo anche una sezione, diciamo, di in cui pubblichiamo i video, e i vigili del fuoco in questione, i quali ritenevano che non fosse all'inizio una notizia interessante da darci, e alla fine ci hanno anche fornito il video, e lì si vede proprio questo gatto che riemerge dal water come se fosse un secondo parto, come se fosse nato una seconda volta. Questi vigili lo acchiappano per la coda e lo tirano fortissimamente fino a farlo uscire da lì dentro, e lì c'era risalito passando attraverso una fogna. Chissà cosa cercava, forse cercava fresco o cercava di inseguire un topo, non si sa. Immaginatevi questo gatto che entra da un tombino, entra in una fogna, in qualche modo si incanala dentro al tubo che porta appunto al sifone di un'abitazione al primo piano, in cui vivono due sposini, due futuri sposini, che a un certo punto sentono grattare, da dove arriverà questo rumore. Terrorizzati chiamano i vigili del fuoco: che sarà mai succedendo? Uh-huh. Alla fine era questo gatto, e quando i vigili arrivano mica riescono a capire subito dove si era infilato questo gatto, quindi tolgono il water, tagliano proprio, eliminano il water dal pavimento. E in questo momento va tutta la nostra solidarietà agli sposini, che mi immagino lì nella loro casa nuova in attesa, esatto. E si trovano con il water squartato, ma questo per il bene del gatto. E dopodiché? Dopodiché questo gatto non appariva, quindi né dal cunicolo che porta alla fogna. Quindi tu immagina che tolgono questo water, quindi nel pavimento rimane soltanto il tubo, tu di questo tubo nero, senti miagolare, non si capisce da dove viene, quindi non si capiva se veniva dal water oppure dal tubo. Quindi questi vigili rigirano il water da una parte a un'altra, guardano dentro, alla fine alzano il water, e dal water spunta la coda di questo gatto dritta come un fuso, cioè come se fosse la punta di un coltello. Era terrorizzato, rimasto, ci credo, poverino, bloccato nel sifone del water, tutto bagnato, non vi dico di cosa, non approfondiamo l'argomento. Insomma, alla fine l'hanno tirato per la coda, non c'è un altro modo per salvarlo. Ha rischio anche di rompergli le ossa, perché era piccolo, ci avrà avuto 3-4 mesi questo micetto. E invece, insomma, tutto bene, ma ecco, qui però la domanda successiva è, cioè, la giornalista di provincia, no? Se è a New York esce il coccodrillo, se lì esce il gatto, vabbè, uno si accontenta poi anche di quello che ha. Però chi ha intervistato? I vigili del fuoco, gli sposini, il gatto? I vigili del fuoco, giustamente, quelli che dicevano: no, ma sai, niente di interessante. Invece, quando me l'hanno raccontata, ci siamo morti dalle risate. È un po' sì, ma dimmi. E di solito è appunto le battute che poi sono uscite in redazione: ma no, di solito escono fuori i serpenti, escono fuori dalla... succede anche questo, escono le vipere dai water, magari ci vanno a cadere, soprattutto nelle case di campagna, al primo piano, al piano terra, non al primo piano, più che altro al piano terra, ci si vanno a mettere cercando il fresco, non sanno ovviamente che quella è una tazza. Quindi abbiamo cominciato a fare queste battute, ma un gatto non era mai successo. E comunque c'è da dire che i vigili del fuoco sono veramente, a parte i migliori amici dei giornalisti, perché è da loro che arrivano notizie di tutti i tipi, ormai si sono anche abituati, ecco, a quello che noi cerchiamo, soprattutto, come dicevi tu, nei giornali di provincia, quelli in cui si raccontano le storie piccole e grandi dei comuni o delle città che comunque magari non sono grandi città, ad esempio L'Aquila o Sulmona o Avezzano, per parlare della mia provincia, della provincia dell'Aquila. E quindi, ecco, è sempre un piacere quando si fa il giro di nera durante la giornata, durante il normale lavoro di redazione, si parla con loro, perché qualcosa del genere te lo sì, tirano, sì, te lo trovano sempre. Lo sappiamo bene, anche se quando tu hai proposto al tuo caporedattore il pezzo, immagino la faccia, insomma, sarà scattato il sorriso anche. Sì, è vero. No, veramente abbiamo riso, io mentre scrivevo il pezzo ridevo, perché veramente era troppo simpatica la storia. Insomma, è anche bello, credo che voi, insomma, soprattutto al centro, in questo questi anni non avete riso tanto, avete dovuto raccontare tante tragiche storie, no? Sì, e quindi insomma portare anche queste boccate d'ossigeno credo che faccia bene, no? Quella sana leggerezza e quella sana ironia che poi aiuta anche nella quotidianità a riformare così il tessuto sociale. Grazie davvero, grazie davvero Marianna. Grazie a voi. E speriamo di ritrovarci nelle prossime settimane con qualche altra chicca giornalistica. Ma come no, magari. Okay. Magari. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Arrivederci ciao a tutti, arrivederci. Questo è Mine Vaganti, ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua, si parte, si va a Los Angeles e si va a correre con Alex Bellini. Mine Vaganti. Chiama Los Angeles e New York Foot Race 2011. Domenica scorsa sono partiti ed erano in 14. Oggi invece sono rimasti in 10, hanno corso 7 tappe, oggi è l'ottava per un totale di 484 chilometri, ma i passi che dovranno fare per l'intera gara in 70 tappe sono 3 milioni e 500 mila. E se volete vedere una sua foto emblematica andate sulle pagine di Mine Vaganti perché lui è lì e potete vedere come si fa a rinfrescarsi quando fuori stai correndo con 49 gradi. Lui è Alex Bellini, sta correndo e noi stiamo correndo con lui e con lui oggi entriamo in Arizona. Ciao Alex! Buongiorno Federico, ciao, ben ritrovato. Ben ritrovato a te, come stai? Bene, è passata già una settimana, non sembra vero. Una settimana tosta, vero? Una settimana molto tosta, io dalla settimana scorsa molte cose sono successe. Abbiamo attraversato, come hai detto tu, tutta la California, ci troviamo ora in Arizona. Devo dire la vera verità, devo essere molto onesto con tutti. Questa è probabilmente la cosa più dura fisicamente che abbia mai fatto in vita mia. Ci sta mettendo a dura prova proprio non solo per la lunghezza, per la durezza del percorso, ma anche per le condizioni estreme del clima. Abbiamo attraversato zone di deserto del Mojave con 49-52 gradi, l'acqua evaporava, il cervello friggeva, sembrava veramente di essere all'inferno. 349-238-6666, se in diretta volete mandare i vostri messaggi ad Alex Bellini in Arizona, sta correndo questa tappa che è lunghissima, la tappa di oggi, Alex. Sì, oggi ci aspettano 84 chilometri, sto percorrendo adesso, scusate il fietone, ma sto camminando su per una rampa di quasi 30 chilometri di salita, molto bella, molto spettacolare, questo ci aiuta anche a distrarci guardandoci un po' in giro. Però le gambe sotto devono comunque girare. Abbiamo appena abbandonato anche la pianura, quindi il deserto, quindi il tanto caldo. Adesso ci aspettano giornate sicuramente più miti e questo fa felice molti, anzi tutti. Eh sì, il caldo non è stato un amico in questa prima tappa, ma hai il tempo, hai la voglia o forse hai il bisogno di guardarti intorno, di vedere il panorama, di guardare le facce delle persone che incontri, cioè ti accorgi di tutto questo o devi correre, correre e correre? Guarda, il viaggio mi sta passando sotto le gambe come la strada, non mi sto accorgendo molto di quanto mi sta succedendo perché passo 10 ore della mia giornata con gli occhi puntati a 5 metri dai miei piedi cercando di mettere un passo davanti all'altro. Non c'è molta gente in giro, le uniche persone che incontriamo sono quelli dell'organizzazione, i concorrenti, pochissime invece i turisti, le persone anche locali. Mentre adesso speriamo, non subito perché ci aspetteranno ancora una decina di giorni, un po' di isolamento, ma poi avremo magari possibilità di incontrare anche l'americano vero, insomma, quello che magari qualche storia da raccontare ce l'ha, e allora sì che il viaggio inizierà a farsi interessante. Eh sì, adesso insomma c'è poco tempo e poca voglia, forse poche energie per chiacchierare, per accorgersi, per guardare. Esatto. Cosa che però stai facendo col tuo team, insomma, è questo supporto che è determinante, vero? Sì, è determinante. Senza di loro farei doppia fatica. Siamo un team ben assortito, ci divertiamo molto nei momenti di pausa, ridiamo, scherziamo, proprio come se fossimo quattro ragazzini in gita, no? Però molto, molto professionali. Anzi, vorrei intanto cogliere l'occasione per ringraziarli tutti, ma vorrei invitare anche le persone che adesso mi ascoltano per radio di andare a visitare i vari social network o i vari siti, spazi, per poter avere per poter gradire le fotografie che Mauro, che è il fotografo ufficiale del team, sta realizzando, che sono documenti fantastici e che raccontano molto più di tante parole. Ma te la sei tagliata la barba? No, ancora lì. Abbiamo fatto un patto tra noi del team, che nessuno se la taglierà fino ad arrivare a New York, quindi arriveremo un po' barbuti tutti quanti. Infatti ho visto alcune foto e sono molto significativi. alexbellini.it è il sito ufficiale da cui poi ci sono i vari link per poter correre con te. Alex, ma a cosa ti stai aggrappando quando le gambe ti dicono basta? Oh, e c'è già stato questo momento? Cioè le gambe ti hanno già detto basta e la tua testa ha vinto sulle gambe? No, ti devo dire, le gambe no, perché sono ben allenate. Spesso è la testa che non risponde, perché col grande caldo uno inizia anche a non essere più centrato su se stesso. Allora in quelle situazioni lì sembrerà divertente, sembrerà sciocco, però a New York verrà a salutarmi, darmi il benvenuto anche Sofia, che è la mia prima figlia. Allora mi immagino il giorno in cui la rivedrò da lontano, e questo ovviamente, come potete sentire, già mi emoziona, no? E questa è una fortissima ancora, perché non voglio privarmi di quel momento per niente al mondo. Alex, ma oggi, poi ti salutiamo, anche perché insomma stiamo faticando anche noi sentendoti lì col fiatone, sapendo che c'è una rampa di 30 km che ti aspetta, questa strada in salita, sapendo che la tappa è ancora lunga. Oggi a che ora sei partito e a che punto sei della gara odierna? Siamo partiti come al solito alle 5:30, ora sono le 9:30 più o meno. Abbiamo fatto 30 km, ce ne aspettano altri 54, il 90% di salita, quindi con molta probabilità arriveremo all'arrivo ormai sera. Però ogni tanto va così, se la vi, ce la prendiamo con calma, ci mangiuchiamo qualche cosina ogni tanto, ce la facciamo passare. Ecco, e da qui possiamo fare qualcosa per te? Possiamo spingerti in un qualche modo? Possiamo darti un passaggio? Come possiamo essere utili? Beh, sicuramente lasciandomi qualche messaggio carino su Facebook. Io magari non direttamente ogni tanto, però attraverso Mauro, ma anche direttamente in realtà. Poi capita di rispondere, quindi insomma fatevi sentire, perché poi la gara la facciamo tutti quanti. Ci scrive Viviana intanto in diretta, che dice: in bocca al lupo al Coyote, al Forrest Gump italico. Insomma, non è male come etichetta per questa per questa avventura d'oltreoceano. Guarda Federico, io immaginavo fosse bello un viaggio negli Stati Uniti, ma si sta rivelando ancora più bello, perché è veramente, cioè, uno quando pensa agli Stati Uniti pensa alle grandi pianate, ai grandi deserti, al grande tutto, e fino a questo momento siamo rimasti molto soddisfatti. E sarà uno di quei viaggi, come mi è capitato anche in passato, che non dimenticherò mai, quindi sono grato al destino e alla mia vita che mi abbia voluto portare fin qua. Alex, l'appuntamento con la tua voce è a domenica prossima, sempre alle 18.30. Noi insomma tentiamo di correre con te in maniera molto più comoda, molto più radiofonica, ma ti seguiamo quotidianamente, vogliamo esserci e ci piace poter raccontare questa tua impresa, al di là dell'impresa sportiva, questa tua appassionante, questo tuo appassionante viaggio nel cuore degli Stati Uniti. Ciao Alex, cammina anche per noi. Va bene, voi riposatevi anche per me. Buona domenica, ciao. Grazie, ciao a te, ciao Alex Bellini, là, Los Angeles, New York. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Corsi fino all'oceano. E una volta lì, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre. Ce l'avevamo lì, l'abbiamo trovato, bravi, bravi, un grazie a tutta la squadra di Mine Vaganti. Qui abbiamo citato Forrest Gump ed eccolo entrare all'interno della puntata. alexbellini.it oppure le pagine di Facebook di Mine Vaganti per seguire l'avventura di Alex in questo appuntamento settimanale. Insomma, avete sentito la fatica ma anche le belle parole, insomma è un testimone di cosa, della fatica, del sacrificio, ma di quanto la passione sia un vero carburante. Oggi abbiamo parlato tanto di passione, ma passione è anche il filo conduttore di tante mine vaganti. E a Mine Vaganti ci divertiamo anche andare a cogliere gli eventi più folli, più divertenti, più strani che raccogliamo in Facebook. Ci stiamo collegando con Bergamo, dove, attenzione, si stanno tenendo i secondi campionati mondiali di nascondino. Con noi c'è Luca Gallo. Ciao Luca. Ciao. Stai contando? No. Vabbè, abbiamo appena finito, abbiamo già decretato i vincitori. Attenzione, ora è il secondo nascondino World Championship, è proprio l'idea, esatto, di fare una sorta di campionato mondiale del gioco più famoso del mondo, organizzato dai ragazzi di una rivista d'arte e musica che si chiama CTRL. Esatto. E come vi è venuta l'idea? Perché proprio il nascondino? Allora, diciamo che in realtà è un evento che ha dei partner, nel senso che CTRL Magazine ha avuto l'idea del Nascondino World Championship in collaborazione con Place for Situation, che è un progetto formato in occasione della tutela degli orti di San Tommaso. Sì. E allora, l'anno scorso abbiamo pensato, per cercare di rivalorizzare un luogo bello come era quello degli orti, di organizzare una gara di questo tipo. E il gioco poi, che ha anche dei risvolti più profondi, insomma diventa un collante sociale, diventa un modo per vivere insieme la città e sperimentarsi anche come persone insieme, è piaciuto e si è pensato di ripeterlo quest'anno alla festa al Pacco di Loreto. Perfetto, allora, Luca, poi ci fermiamo un attimo, dimmi in quanti eravate più o meno a giocare? Eravamo 6 squadre da 6 persone, quindi 36. Okay, insomma, i migliori al mondo nel gioco. Migliori al mondo. Ovviamente. Luca, sei lì, ci fermiamo e lasciamo spazio alle informazioni per chi sta viaggiando e poi ci racconti anche le regole, se non quelle ufficiali o se invece avevate appunto delle regole tutte vostre. Mine Vaganti. Campionati mondiali di nascondino, succede anche questo in questa divertente e bizzarra Italia. Siamo a Bergamo con noi Luca Gallo. Luca, quali erano le regole ufficiali? Le regole diciamo che sono un po' quelle del classico nascondino, semplicemente riarrangiate, per cui esistono delle squadre che sono identificabili dalle magliette colorate, molto anche pittoresco come gioco, e poi ci sono i cercatori che devono andare a stanare nei punti in cui si sono nascosti i giocatori queste persone, liberandosi loro possono guadagnare dei punti, oppure se vengono colti dal cercatore non ne prendono nessuno e poi alla fine insomma si fanno i conti. Perfetto. corretto. Ci sono state contestazioni? No, non ci sono state contestazioni ex equo, ma gestiti molto diplomaticamente. Bravi. Chi ha vinto? Diciamolo a questo punto. Perché vogliamo... hanno vinto i Bordeaux, che si sono aggiudicati la foglia d'oro. Dove si erano nascosti? Chico, esatto, ovviamente. Eccoli lì, dove si erano nascosti? Si erano nascosti un po' in tutto il parco tra gli alberi, ci sono state anche persone che si sono nascoste all'interno di sacchi che si sono poi riempiti di juta e uscivano fuori di soppiato all'ultimo momento, facendo veramente ridere. Grazie davvero Luca, a te e a tutto il team che ha organizzato la manifestazione. Volete dare un sito di riferimento? Lo do io, anzi, e c3lmagazine.it per conoscere anche l'attività di tutti i ragazzi legati alla rivista d'arte e musica. Ciao e grazie. Perfetto. Ciao, grazie. Ciao. Con questi ritmi rimaniamo sempre a Bergamo, perché è un gruppo di percussionisti e ormai è famosissimo, insomma, non solo a Bergamo, ma hanno fatto tournée in tutta Europa. Piacciono i loro rumori, perché anche i rumori sono i loro suoni, la loro tecnica. Si chiamano Percussioni Dadadang, anche il nome è un suono, e con noi c'è il fondatore e il musicista responsabile delle percussioni, Vittorio Panza. Ciao Vittorio. Ciao. Ciao. Viene da legarsi un po' la lingua a dire il nome del vostro gruppo, eh? Hai ragione, sono perfettamente d'accordo. Ma chi siete? Perché ho visto dei video anche spettacolari, molto artistici, una ricerca anche visiva, ma di fatto fate rumore. Allora, cerchiamo di non fare proprio rumore, cerchiamo di fare dei ritmi con quelle che a volte sono considerati strumenti rumorosi, ecco, ma sono pur sempre strumenti, cioè le percussioni. Mm-hmm. E in quanti siete? Allora, l'organico è di 9 persone, intorno alla compagnia poi ruotano anche altri collaboratori, così per un totale più o meno di circa 12 persone. Siete appena tornati dall'Olanda, proprio a testimonianza di questa vocazione anche, no? Andare a suonare all'estero. E cosa fate? Soprattutto musica di strada? Proprio ho visto anche a teatro in alcune immagini su YouTube. Sì, esatto, la compagnia nasce nel 1985 sull'idea di una banda da strada, dall'idea di un organico che suonasse ovviamente le percussioni, strumento a cui io mi sono formato. E così, fra l'idea della batucada brasiliana e le più classiche marching band americane, e poi è nata questa idea un po' strana che ci caratterizza e per la quale, ecco, da 25 anni abbiamo avuto parecchi riconoscimenti, insomma. Ci piace a Mine Vaganti, no? Assolutamente chiudere con forme musicali nuove, forme artistiche nuove, la vostra sicuramente lo è. E è complicato rinnovarsi in questo campo, perché appunto prima parlavamo di queste cose teatrali, so che adesso state anche sperimentando nuovi percorsi per portare anche a teatro, abbinare forme artistiche, contaminarsi un po', ecco, alla fine questa serve, contaminarsi per proporre qualcosa di nuovo, di diverso. Assolutamente. Poi qui la contaminazione avviene fra due elementi, diciamo, primari, cioè il movimento e il suono. E nel 2001 io ho provato a passare dalla situazione che è quella in cui le percussioni Dadadang con la loro parata si muovono dal 1985 ad un'altra situazione di teatro, da un concerto da camera per quartetto, e adesso stiamo lavorando ad un altro gruppo che probabilmente produrrà questo spettacolo che si chiamerà Drums, un'italianizzazione di tamburi, sì. E dovrebbe con buona fortuna debuttare nel 2012. Vittorio, facciamo una cosa molto radiofonica, cioè, riesci a commentarci quello che stiamo ascoltando? Ce lo riesci a far vedere? Allora, questa è la suggestione di uno stile che sarebbe quello rap, i cui amanti però magari mi odieranno in questo momento. Io quando ho scritto questo pezzo ho pensato così in generale a quello che mi ispirava questo stile di musica. Mentre suoniamo questo pezzo, il gruppo si muove e verso destra e verso sinistra. Ad ogni pezzo che noi suoniamo, che viene chiamato danza nel nostro repertorio, noi abbiniamo dei passi sincronizzati con delle coreografie molto precise che tutti e nove i musicisti rispettano collettivamente. Quindi insomma anche molto spettacolare da vedere. Sì, ecco, il gioco sì, è fra quello che si vede e quello che si suona, quello che forse ha fatto sì che di questo spettacolo ci siano state, pensa, 500 repliche in questi 25 anni, forse è proprio questa unione, lo spettatore vede qualcosa mentre sente qualcosa, e questo è probabilmente particolarmente intrigante. www.dadadang.it è il sito ufficiale. E prima di salutarci, Vittorio, so che hai aperto anche una scuola di musica, ma e soprattutto del rumore lì a Bergamo. Sì, beh, ecco, sì, è una scuola di musica e del rumore, è il marchio commerciale. La parola mi piaceva molto, è stato un amico a darmi questo suggerimento, a inventare questo, diciamo, logo. Mi piace molto perché fa riferimento all'altra musica, all'altro aspetto, fa riferimento alla vivacità dei bambini, alla creatività, a tutto quello che oggi è molto moderno, e il rumore è molto moderno oggi. E cosa insegni, scusa? Insegniamo tutti gli strumenti secondo una metodologia particolare, esclusiva proprio della scuola, a cui ho lavorato per molti anni, siccome io faccio e il musicista e l'insegnante. E questa è la caratteristica della scuola. Fantastico, si può fare musica anche con i rumori. Grazie davvero, Vittorio. Grazie Panza. E, avete qualche esibizione in programma? Allora, prossimamente nel nord dell'Inghilterra, al festival di Stockton, Riverside Street Festival. Direi che anche lì il suono va benissimo, per il nome del festival è perfetto per voi. Vittorio Panza, www.dadadang.it. Ciao e grazie. Grazie a te, ciao. E con questi ritmi finisce la puntata di oggi. Un grazie a tutta la squadra, Margherita Ina che con me ha scritto la puntata, Giorgio De Luca che ha collaborato, a Marco Lombardo in assistenza che mi ha appena trovato il link del gatto salvato dal water. L'abbiamo già pubblicato nelle nostre pagine in Facebook di Mine Vaganti, c'è il video, così insomma potete assistere al lavoro dei vigili e del fuoco. Un grazie a Paolo Corleoni in regia che come sempre si è divertito con le nostre musiche e i suoi tasti. E l'appuntamento con Mine Vaganti ovviamente è a domenica prossima. La puntata sarà disponibile in podcast da domani dal sito radio24.it. Ancora ciao da Federico Taddia.